Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? E bentornati Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che oggi torna su uno dei grandi padri della grande pedagogia degli anni 60. Lui è Bruno Ciari, un personaggio che ha percorso largamente quello che è il movimento di educazione cooperativa e che noi scandaglieremo con le parole di Mirella D'Ascenzo, che Morena Moretti ha raggiunto al telefono. Mirella D'Ascenzo è professoressa ordinaria del Dipartimento delle Scienze dell'Educazione Giovanni Maria Bertin. Dopo lo stacchetto musicale, l'intervista. Mirella D'Ascenzo, nel 1966 Bruno Ciari viene chiamato a Bologna ed è nominato direttore didattico per le attività scolastiche comunali. Allora, qual era l'intento del Comune di Bologna all'epoca e perché proprio la scelta ricadde su Ciari? La chiamata di Ciari arriva in un momento particolare, sostanzialmente soprattutto l'assessore Ettore Tarozzi, che era assessore all'istruzione fin dal 1960, siamo all'interno di una giunta comunista guidata da Giuseppe Dozza, quindi siamo in un quadro del secondo dopoguerra molto particolare, caratterizzato dalla guerra fredda, delle grandi tensioni di tipo politico e anche dall'arrivo, diciamo così, di nuovi modelli anche di tipo culturali dall'America sostanzialmente e anche negli anni del boom economico, quando cioè il Comune di Bologna aveva iniziato a investire in maniera sostanziale e importante sull'istruzione, l'educazione dei cittadini bolognesi, ma non solo, anche di quelli appunto in condizioni di immigrazione interna dal centro e dal sud, ma anche dalle montagne e dalle campagne bolognesi. E già aveva avviato tutto un processo chiamato appunto anche dei febbrai pedagogici, in particolare del 62, con investimenti importanti sul piano economico, ma anche sul piano di rinnovamento pedagogico didattico. Quindi quando Ciari viene chiamato, non viene chiamato nel vuoto, trova cioè una situazione già feconda, molto fertile. La chiamata di Ciari è particolare perché Ciari era un maestro che sicuramente, anche se adesso sto lavorando ancora sul piano della ricerca scientifica, storiografica, sicuramente Ettore Tarozzi già conosceva e aveva conosciuto probabilmente in un convegno del movimento di cooperazione educativa precedente. Quindi la sua chiamata è una chiamata di rottura anche, nel senso che pur essendo già esistente una vivacità, come dicevo prima, pedagogica, di rinnovamento pedagogico e didattico, Ciari impersonava anche con le sue idee qualcosa di completamente nuovo, in particolare la dimensione della gestione sociale, la scuola e dell'educazione e anche un rinnovamento rispetto a un modello, ad esempio per gli asili, come si chiamavano allora, o scuole materne e oggi scuole dell'infanzia, che andasse oltre il modello che si stava affermando anche in Bologna di tipo montessoriano, riferito insomma ad altro consulente pedagogico che era Roberto Mazzetti, allora per il Comune di Bologna. Quindi è un arrivo che non cade nel vuoto, ma che segna anche per Tarozzi e la Giunta un rinnovamento ulteriore sul piano proprio dell'impostazione pedagogica e didattica, e anche perché Bruno Ciari era comunque culturalmente e politicamente allineato al PC, anche se non fu comunque ben accolto all'inizio all'interno della stessa area del PC bolognese. Lui portò Ciari comunque una rivoluzione, o comunque mise, diciamo, quelle che poi vennero chiamate delle tecniche di insegnamento nel rapporto tra insegnanti e bambini, ragazzi, che erano davvero molto innovative. Lei nel suo intervento recente a un convegno tenuto su Ciara Bologna li ha chiamati gli anni magici e l'ha definita anche una storia breve e intensa in cui furono poi coinvolti moltissimi insegnanti, maestre in questo percorso, che era un percorso anche incredibilmente affascinante, credo, per chi lavorava nelle scuole all'epoca. Diciamo che la definizione appunto anni magici è breve storia intensa, perché qui la sua permanenza è stata brevissima, dal 66 al 70, quando poi è morto, e intensa anche invece per la quantità di iniziative da lui avviate, portate avanti in questi pochi anni. Sia possiamo individuare alcuni settori di intervento: intanto la scuola della fascia 3-6 anni, quella che poi viene chiamata scuola dell'infanzia, e poi il tempo pieno, l'introduzione sperimentale del tempo pieno qui in città, e l'altra parte la gestione sociale, quindi democratica, della scuola. E potremmo anche avviare, proprio perché tutto questo è collega, il tipo di formazione degli insegnanti in servizio che lui avvia per portare avanti queste idee. Sostanzialmente Ciari era un maestro elementare, quindi legato al movimento di cooperazione educativa che era nato nel 51 con Giuseppe Tamanini, che intendeva rinnovare la scuola allora elementare con le tecniche didattiche introdotte dalle Célestin Freinet, questo grande maestro, studioso, pedagogista, che negli anni 20, 30 e 40 aveva cercato di svecchiare la scuola tradizionale introducendo la tipografia scolastica, la corrispondenza interscolastica, ma anche il calcolo vivente, il metodo naturale per la lettura, per il disegno, quindi tecniche nuove che non erano neutrali, perché le tecniche didattiche non sono mai neutrali, richiamano in questo caso un nuovo modello di scuola di tipo cooperativo, democratico, in cui l'insegnante non è sovrano assoluto ma è un primus inter pares, e quindi costruisce un setting e una organizzazione didattica che sviluppa fortemente la responsabilità individuale, la collegialità, la cooperazione in classe. E qui insomma tanti filmati anche sono in rete su Mario Lodi, che è stato uno dei grandi esponenti e l'amico, un grandissimo amico di Bruno Ciari, lo raccontano. Insomma, queste nuove tecniche didattiche erano soprattutto legate alla scuola elementare, ma quando Ciari arriva cerca in qualche modo di introdurre anche ad esempio nelle scuole dell'infanzia questa visione nuova, che verrà chiamata nuovo indirizzo, e che introduce anche alcuni materiali strutturati che in quegli anni la ricerca psicopedagogica e anche della didattica delle singole discipline come la matematica stava sviluppando, quindi i blocchi logici, Doldines, i numeri in colore di Cusinere e Gattegno, ingigantiti ovviamente adatti alle scuole dell'infanzia, quindi non nella loro fisionomia, nella loro originale destinazione per la scuola elementare, ma come forma di gioco che però in realtà nelle scuole appunto 3-6 anni potevano avviare alla intuitiva affermazione insomma di un pensiero di tipo logico e matematico. E questo viene in qualche modo presentato anche agli insegnanti, alle insegnanti delle scuole allora materne o asili, come si chiamavano, e bolognesi, in vari corsi di formazione e aggiornamento che lui propone in maniera molto informale. Cioè, questo è un aspetto che mi è stato proprio esplicitato da alcune maestre di quegli anni che ho avuto modo di recuperare e di video intervistare, e queste video interviste saranno poi pubblicate anche sul sito del Centro di Ricerca Interdisciplinare per la Storia e Memoria della Scuola e dell'Educazione, acronimo CRISMESE, che è già visibile sul web ed è all'interno dell'Università di Bologna, in particolare nato all'interno del Dipartimento di Scienze dell'Educazione, quindi verranno pubblicate a breve. Queste maestre, Anna Selva in particolare, ma anche Chiara Terazzo, hanno raccontato come appunto lui, facendo di così le sue visite dentro le scuole, e in qualche modo proponesse molto liberamente di partecipare a questi gruppi di autoformazione, di autoaggiornamento, lui in cui era anche presente, e loro sceglievano liberamente, quindi non c'era imposizione, di trovarsi e di leggere insieme i testi di Dewey, i testi di Freinet, i testi anche poi di Brunner, di Piaget, quindi la psicopedagogia allora all'avanguardia, innovativa. E contiene così delle riflessioni e anche dell'introduzione appunto di questi materiali di cui dicevo prima in via sperimentale, pensando anche a una riorganizzazione dell'intero setting della scuola tradizionale, anche scuola dell'infanzia, e anche della gestione appunto sociale di queste nuove scuole dell'infanzia, che prevedeva il coinvolgimento pieno diretto delle famiglie in riunioni di progettazione anche insieme, quindi non soltanto le famiglie come destinatarie di scelte già svolte, realizzate dall'alto delle insegnanti, no, la scuola, ma con il pieno coinvolgimento nelle scelte e anche nel coinvolgimento dei genitori in attività in cui loro magari erano già adeguati, già preparati, disponibili. E questo è un aspetto anche importante sul rapporto scuola e famiglia, che allora invece era assolutamente, vedeva una separazione netta, sia nella scuola 3-6 anni ma anche nella scuola, diciamo, elementare. Beh, dopo Bruno Ciari e l'intervento di Mirella D'Ascenzo, continuiamo a parlare di pedagogia, ma nella pratica. Lo facciamo con Gianni Rodari, che utilizzò anche i nuovi media del tempo, quello degli anni 60, ovvero sia la nuova televisione, per portare i suoi contenuti in una trasmissione che diventerà importante, Giucca Gio, che sarà poi in qualche modo l'antefatto di altre trasmissioni a venire, tipo la Melevisione, altro capitolo decisivo nella storia televisiva per i ragazzi. E allora ascoltiamo un frammento del Giucca Gio dell'epoca, dove troviamo Gianni Rodari a contatto con i ragazzini. Tante storie ti voglio narrare, tante storie per giocare, quando non ne so più, me le racconti tu. Le storie di una volta parlavano di fate, di maghi, di streghe, di vele addormentate, ma in giro per il mondo, per chi le sa cercare, ci sono tante storie nuove ancora da inventare. Tante storie ti voglio narrare, tante storie per giocare, e quando non ne so più, me le racconti tu. Programma per i piccoli. Tante storie per giocare. Settimanale a cura di Gianni Rodari. Regia di Marco Lani. Arriva non un gatto, ma Giovannino per il giorno. Giovannino per di giorno prese il tram numero 40 e si trovò nel paese degli uomini pianta. Se ne stanno tutti in fila piantati nei loro giardini, gli alberi adulti e gli alberi bambini. Dove nascono rimangono, legati alle radici, né mai vanno in viaggio o a visitare gli amici. Vestono di corteccia, di chiara e di scura, e foglie e fiori sono la loro capigliatura. Come campano? Campano. Come i pini e gli ulivi. Prendono dalla terra ciò che li tiene vivi. Non lavorano, non giocano, non litigano mai. Sarà bello, fa Giovannino, ma io riprendo il mio tramvai. E Giovannino se ne va di nuovo col suo tramvai numero 40. 40. Ah, sì, numero 40. A lui non piaceva stare in quel paese di tutti. Sempre fermi. Perché non si faceva proprio niente. Niente, eh? Si stava lì. Ma si stava lì imparato. Ecco, paese. Ma magari non si può neanche litigare un po'. Un fiore aveva caldo, ma sudava tutto e poi era usava rugiada. Usava rugiada, va bene, questo è uno sviluppo della storia. Io penso però che nessuno di noi è uomo pianta. Martina, sei una donna pianta tu? Io no. No, sei una gran viaggiatrice. Beh, Michela. Direi. Ah, perché ha una camicetta tutta a fiori. Però noi possiamo testimoniare che Martina ha la camicetta a fiori, ma non è una pianta. Finita la trasmissione, cammina. Ma è il mondo. Ma è il mondo. Nessuno di noi è un uomo pianta. Noi siamo tutta gente che viaggia. Nessun divertimento in quel paese, perché nemmeno si poteva andare così a cinema. Non possono andare neanche in giostra, perché le piante non possono andare. No. perché sennò si dovrebbero portare il gruppetto magari di terra. Poi disse Giovannino, non possono litigare, ma perché litigare è una bella cosa. No. Beh, litigare no, però discutere, sì, appassionarsi, sì, qualcosa si può anche alzare la voce. Ma potevano neanche fare le gare. Non potevano neanche fare le gare, fare la corsa, gare di automobili. Magari le gare di chi faceva sbocciare prima i loro fiori. Potevano fare la gara più stupida del mondo, la gara del silenzio, quella sì, potevano stare lì, tutti i a fare chi stava più zitto. Vincevano tutti, magari. Magari arriva Giovannino Perdigiorno vicino a uno di quegli uomini pianta e fa una mossa bufa, allora se lo ride se lo perde. Ognuno di noi potrà continuare a pensare e a fare castelli in aria o piante in aria sugli uomini pianta. Noi adesso dobbiamo salutare tutti perché la nostra piante è finita, caro Luca, non possiamo più parlare, dobbiamo dire ciao a tutti. Arrivederci! E ci risentiremo per l'ultima volta mercoledì. Abbiamo trasmesso Tante storie per giocare, settimanale per i più piccini a cura di Gianni Rodari. Sono intervenuti per la parte musicale Janet Smith. Ed inoltre Alessandra Cacialli, Renato Cominetti, Lia Curci, Gastone Pestucci, Deddy Savagnone, Silvio Spaccesi. Regia di Marco Lami. Sono Giuseppe Palumbo, sono un autore di fumetti. Se hai più di 60 anni ti ricorderai di me su Frigidaire, se ce n'è qualcuno di meno probabilmente ti ricorderai dei miei fumetti su Diabolic o altre testate. Quello che voglio ricordarti è di sostenere abbonandoti a Radio Città Fujiko. Mi raccomando, io di Fujiko me ne intendo. Da 47 anni ti offriamo un'alternativa. Abbonati a Radio Città Fujiko. www.radiocittafujiko.it/abbonamenti. Terzo appuntamento con Patrizia D'Antonio sui fumetti, ma non solo, perché oggi parliamo di street art e andiamo a Casablanca. E allora ascoltiamo uno di questi percorsi di Patrizia, come sempre anche tratto da donnecolzaino.org. Parlare di street art, graffiti o murales fa pensare immediatamente alle grandi città periferie urbane di New York, Londra, Parigi, Berlino, quanto di più si conosce anche di occidentale, per di più. In realtà basta attraversare il Mediterraneo e mettere piede nel continente africano che in molti sanno che Casablanca è la città della street art. E ha un interesse anche internazionale, perché questa arte, che è diventata la più importante in una città dove effettivamente non ci sono musei, non ci sono altre attrattive artistiche e culturali se non appunto quelle naturalistiche o legate appunto alla famosa moschea Hassan II, in realtà offre un panorama, un'esplorazione incredibile. Allora, in molti turisti si veniva pensando che oltre al giro classico dell'Art Deco, che risale un po' ai tempi del colonialismo, non ci fosse altro. Ebbene, è un'arte giovane effettivamente, che è stata peraltro regolarizzata grazie alla costituzione dell'associazione Le Boulevard, e pare, la storia me l'ha raccontata Amin, una guida artista, a sua volta, che pedalando offre appunto un giro di scoperta anche duplice, perché anche quella di cercare di pedalare, dunque di inforcare una bicicletta in una città caotica dove il traffico è davvero micidiale, è anche questa un'avventura nell'avventura. Ecco, Amin racconta che un poliziotto probabilmente gentile e lungimirante aveva proposto agli artisti che clandestinamente decoravano i muri di provare a organizzarsi come un'associazione, poiché senza autorizzazione lui era costretto a multarli e questo probabilmente lo cominciava a stancare. Ecco così che dal 2013, quindi abbastanza recentemente, nasce un dialogo costante tra la municipalità gli street artist che da soli o soprattutto in collettivo danno vita a dei progetti. Uno più famoso è il Festival Sbaga Baga oppure Casa Mugia, che periodicamente appunto vedono mettere all'opera questi artisti e dipingere delle facciate incredibili. È diventato davvero l'attrattiva, vista di buon occhio dal re, poiché si sa, il re non ama molto Casablanca, preferisce la capitale, appunto Rabat, ma Casablanca con i suoi murales trova che si renda, come dire, in una veste un po' più interessante, più decorata, colorata, migliore. Ecco che in questa esplorazione, ripeto, dove dei vari collettivi, anche per esempio nel 2017 c'era l'Urban Art Wave che ha avuto proprio con il progetto Casa Mugia l'obiettivo di trasformare la città in una galleria a cielo aperto. È diventata davvero l'African Town della street art, dove artisti africani e internazionali arrivano. E non sono solo i giovani diplomati dall'École des Beaux-Arts, ma sono anche artisti interessanti e, come dire, anche improvvisati, ma che poi con la pratica diventano grandi artisti. I temi cambiano, sono diversi. Un anno è la raffigurazione dell'infanzia, un anno i mille volti della donna e altre volte sono i fumetti. Io chiedo quale sarà il prossimo tema e quando ci sarà il prossimo festival, ma in realtà Amin mi risponde che dipende dal budget e che bisognerà scoprirlo, quindi a un certo punto, camminando con il naso all'insù, si troverà qualche facciata nuova. Il giro che ho fatto e che continuamente cerco di fare nella mia passeggiata verso la Corniche, verso questo lungo oceano molto bello, mi fa scoprire davvero continuamente altri artisti, e dietro ognuno di essi ci sono delle storie incredibili. Ad esempio c'è Dinam, che mi racconta Min, un artista che ha davvero poi voluto chiudere i ponti con la civiltà ed è partito vivere senza nessun contatto in campagna, lontano dalle città. È l'autore di cosiddetto murales Ingrid Bergman, e sembra, la storia racconta, che quando gli è stato commissionato appunto il famoso tema Casablanca, lui lo rifiutasse, come a dire: ma non si può ricordare Casablanca solo per il film, che poi insomma discutibilmente girato in questi luoghi. In realtà ha creato un Ingrid Bergman molto particolare da scoprire senz'altro, quindi io vi invito a visitare il sito wecasablanca.com, dove si potrà trovare un gran filone, che è quello dei fumetti, e peraltro con un murales molto famoso dell'artista internazionale Moca, quindi con una facciata piena di fumetti, anche perché bisogna, ecco, dire come ultima cosa che nel tema c'è una sorta anche, mi diceva Min, non proprio di autocensura, però si sa che tutta una serie di temi, corpi nudi, anche solo sfiorare una mano di un uomo o una donna, non è possibile che vengano raffigurate. È molto interessante però è la serie sulle donne, dove scopro che ci sono ben 2-3 artiste donne. Una è Sara Lamin, detta Rose, che è appunto tutto un filone sui fiori, sulle rose, e altre invece, un'altra che ha voluto raffigurare una donna in cucina con il suo grembiule, così come per dire, per denunciare il fatto che il ruolo della donna è ancora quello appunto di rimanere all'interno della casa e della cucina. E questo è così una rivendicazione. Peraltro questa serie di murales si trovano in un quartiere popolare, e devo dire quindi che il percorso va dalla Medina al Boulevard Ramfa, dove c'è il quartiere moderno, al quartiere più appunto popolare, più antico, il quartiere popolare tra l'altro minacciato da un piano immobiliare che terribile, insomma, che fa pensare, ed è stato invece scelto da molti artisti non a caso per raffigurare un murales di un pescatore, Bakr Ad, oppure di una donna famosa che ha lottato appunto per l'infanzia, o di un bambino morto, questa è una storia di cronaca, insomma, in un pozzo, e quindi diciamo per mostrare anche il degrado di certe zone, con però immagini davvero belle. Allora ci sarebbe da raccontare, da citare tantissimi altri artisti: Amin Bush, Mehdi Amassi, Zorg Art, Majid El Barama. Ci fermiamo qui. Ripeto, il punto di vista delle donne artiste poche, o anche degli artisti che hanno scelto di raffigurare le metamorfosi delle donne, per esempio c'è tutto il filone sulla cultura berbera e la contraddizione tra la donna, il ruolo un po' tradizionale e la modernità. Ecco, ci sarebbe veramente tantissimo da raccontare, ma credo di essere fuori tempo e quindi vi do appuntamento per la prossima volta. Da Casablanca, Patrizia.